programma è in collaborazione con stymusic.com. Del lupo. Buonasera, iniziamo una nuova puntata di Wolf Trips. Un po' infreddoliti stasera, sì, devo dire la verità, no? Ci siamo ancora per poco, dai. Sì, adesso abbiamo attaccato i riscaldamenti, ci scaldiamo un attimo. Anche la griglia, eh? Ha messo la griglia, il riscaldamento, dai, è tutto pronto. Un po' di carne. Eh sì, giustamente, non abbiamo ancora mangiato. C'è già la carne, no? No, ascolta, con me ci sono le ossicine, semmai. C'è sempre qualcosa, non ti Sì, dai, fare. Qualcosa si ricava. Sempre qualcosa dietro. Bene, comunque, stasera ascolteremo un po' di musica particolare, un po' diversa dal solito. Ho fatto un po' un giro, sempre nelle solite net label, però... No, solite no, in realtà anche net label nuove. È partito il jingle prima della nostra collaborazione con Stay Music. Tra l'altro ho saputo anche che forse ci collaborerà anche qualche altro DJ della radio su nostra, diciamo. Si comprò la radio? No, qualche altro DJ della radio. Sì, no, scherzo. Ah, non l'avevo capito, non l'avevo capito. Va bene, va bene. Niente, voi tutto a posto? Sì, sì. Anzi, non vi ho presentato, scusate. Allora, siamo sempre i soliti. Siamo sempre... Oh, no, beh, però siamo in cinque dai stasera. Siamo... I cinque moschettieri. Vabbè, adesso tagliamo una voce. Siamo in quattro. Ecco, che è meglio. Allora, siamo io e Fabio dalla parte della regia e la Cri, Deborah e Tony dalla parte dello speaker. Perché il microfono è uno, quindi sì, è lo speaker. Poi... Ce lo dividiamo in tre. Ve lo dividete in tre, sì, sì. E iniziamo subito con un po' di musica che magari ce ne siamo scaldati un attimo. Oh, ti giuro, sì. Io sto morendo di freddo. Poi stasera. No. I contatti. Per... Sì, dopo andiamo subito dopo i contatti. E avremo anche un'intervista. Ah. Dovremmo riuscirci, dai. Dai, che ce la facciamo. Andiamo ad ascoltare questo brano che è di Agatha Tirsty, non Christian. Agatha Tirsty. Sì, l'hanno giocato. Sì, sì, sì. E thirsty. Si chiama. Come si dice? Thirsty. Thirsty, thirsty, thirsty, thirsty. Thirsty. E si chiama Orange Skin. Okay. Love's lasting on. detto che avremmo cambiato un po' lo stile, perlomeno. Ma sì, non di tutta la playlist, eh. No, cioè, non è che adesso mettiamo solo sta musica, eh. Torniamo sempre alla nostra roba tamarra, non è che... Ovvio. Poi stasera abbiamo anche una bella intervista con della musica veramente che bella. Che ho scoperto io. Che hai scoperto tu, è vero, è vero. Bravo. Tra l'altro sono già in contatto sì, con Michele, però ciao, non svelo nient'altro. Sì, sono Michele. Poi dopo lo sentiremo con calma. E il prossimo gruppo, intanto che... Aia. No, prima volevo dare i contatti, giusto? Sì. Se vuoi favorire i contatti, favorisca contatti, patente contatti, per piacere. Basta che non mi chiedi la carta d'identità, perché vergogno. Vabbè, dai, va bene patente e contatti, dai. Allora, ci potete scrivere su WhatsApp al numero 340 136 17, oppure ci possono scrivere su Facebook, su Instagram, siamo molto social, quindi... Più o meno, dipende. Salutiamo Katia che cura i nostri social. La nostra social. E tra l'altro abbiamo anche abbiamo superato anche 1000 follower su Instagram grazie al lavoro di Katia, quindi tutto sommato... Brava Katia, brava. Non abbiamo avuto le nostre piccole soddisfazioni, dai. E poi volevo salutare Simone, che ci aveva mandato, abbiamo passato il suo mixato. Live set mixato settimana scorsa. E io ho trovato un pezzo che cercavo da tanto tempo. Che tra l'altro lui mi fa, ha scritto, non ha capito niente. Penso di sì, perché lui pensa che stasera passiamo il mixato. Però Simone, va che l'abbiamo passato settimana scorsa, mixato. Quello lì è il podcast della settimana scorsa. Non è che faccio il podcast della settimana che ancora fa. Però vabbè, dai, va bene lo stesso. Adesso mi hai messo in confusione, non so neanche che giorno è. Ma che fra un po' è Natale, eh? Sì, infatti, ci siamo quasi. Va bene, dai. Stavo dicendo, così continuiamo, che ho ancora un paio di cose tecniche da sistemare, ma stasera direi che siamo un po' più tranquilli. Forse. Yeah. Forse. E il prossimo pezzo è un duo francese che si chiama Bengale. È scritto Bengale. Quindi, non sapendo come si pronuncia, io lo dico come si scrive. Ecco, però il titolo ti voglio... No, il titolo è facile in realtà, perché è scritto tutto attaccato. Perché Je t'aime, Mon amour, la vie est belle. La vie est belle. Ed è un brano particolare. Secondo me ti piace. Andiamo a sentirlo. Va? La vie est belle et les fleurs fleurissent une fois par an. va bene, dai, rientriamo in studio. Com'era questo pezzo? Ti piaceva? Già candidato anche adesso il pezzo della... Ah, è vero, è vero, è vero. Settimana scorsa avevamo, effettivamente, ci siamo lasciati con la questione in sospeso del pezzo della settimana. Devo dire la verità, questa settimana non sono riuscito a gestire il tutto. Però la settimana entrante lo faremo sicuramente. Quindi scegliamo un pezzo della settimana. Beh, possiamo sceglierlo anche a fine serata. No, lo scegliamo nel corso della puntata, sì. Poi lo ripubblicheremo. Decidiamo qual è quello che ci può piacere di più. Diciamo che già ci ispira. Se la batte. Va bene. E settimana com'è andata? Tutto bene? Sì, un po'. Di corsa. Sempre di corsa. Tra l'altro, corri. A proposito di corsa e corri, volevo salutare Fabio che è sul tapirulante. So che dovrebbe arrivare a breve. Fabio, ho visto. E ci sta ascoltando dal tapirulante. Sì, come lo chiama lui, dal tapiro. Ok, allora Fabio, se ci stai ascoltando, portaci da mangiare. Ma no, è in palestra. Ma dovrà uscire dalla palestra e venire qua. Sì, rotolando. Si ferma. Ferma? Che cazzo stai dicendo? Verso sud. Sì. Comunque, quando esci dalla palestra, portaci un pezzo di pizza, qualcosa, quello che vuoi, basta che si mangi. Sia commestibile. Sì, no, infatti, volevamo chiederlo anche ai nostri ospiti di stasera, ma sono un po' lontani, quindi quindi per stasera direi che non gli chiediamo nulla. Ma riavremo altri ospiti qua in studio, li avremo qualche volta. È l'unica, effettivamente noi non chiediamo nulla, non è che dici chiediamo soldi, chiediamo magari un cibo. Uno scambio, una piccola offerta. Cioè. No, ma non monetaria, no, non ci interessa. Ma no, sì, cibo. La trippa, Tony, ti portano adesso. Adesso no, beh, no, la trippa è un po' pesantuccia. La fagiolata. Ah, che arriva, Ok, allora continuiamo col prossimo brano dell'etichetta Sousu. Ah no, scusami, volevo dire una cosa del pezzo precedente prima di chiudere. È di un'etichetta che effettivamente si è vista chiamata in causa perché l'avevo taggata e quindi ha detto: ah, questa sera passeremo su una radio italiana. E l'etichetta è Miradal. Dopo ovviamente darò tutti i vari contatti e ascolteremo vari brani di questa etichetta questa sera. Quindi andiamo a ascoltare. Sono francesi come etichetta? Non lo so, adesso dopo vado a cercare. E questo invece è il brano di Shoki. Come si dirà? Dispute. Sì. È un brano indie dance. Andiamo a ascoltarcelo. Yeah. Oh, sembrava, sai cosa? Un po' di roba tipo anni 80, no? Alex Chopin de Gazebo. Bravo, bravo, bravo, è vero, è vero, è vero. A me piace parecchio. Comunque sono della Russia, ci tenevo a dirlo, sì, visto sì, che. A me ricorda molto. Comunque a me piace. A me piace tanto, a me piace tanto. Anche, anche il cantato. La batte, quella di prima. Sì, beh, sono due generi diversi. Però. Quindi, molto di più. Quindi diciamo. Ci hai dato veramente dentro, eh? Il nostro amico. Vedremo, vedremo. Se vi piaceranno anche il prossimo pezzo. Ho quasi paura per lui. Il prossimo pezzo è qualcosa. No, cos'è che è successo? No, intanto volevo salutare Adele Simonetta, Pamela Borsani e Sabrina. Sì, ciao, salutiamo. Ragazze che ci stanno guardando e ciao. Ci hanno salutato dalla diretta. E buonasera con noi. Sì, no, seguitela voi la diretta perché io sono preso con le mie ricerche musicali, quindi sono un attimo perso. Poi sto facendo anche un po' di ancora robe tecniche perché qua la regia non ci si stacca mai, è sempre tutto un lavorare. Stavo dicendo, vi è piaciuta, no? I primi pezzi vi sono piaciuti, no? Sì, sì, molto belli. Ok, il prossimo pezzo secondo me possiamo anche andare tutti a casa. No, dai, vediamo. Allora, finalmente ho scoperto che l'etichetta Myrdal è della Messico, precisamente Torreón. Torreón. Messico. Quindi Messico, Torreón. Poi vedi anche il prossimo pezzo di un tizio che si chiama Amaus Mentiras. Un signor. Cioè, non penso che sia reggaeton. Magari è latino? Ma allora, latino allora è già una cosa stupenda. Diciamo che è già un miracolo. Facciamo così, facciamo così. Io già ho letto qualcosa. Non io vuoi... ho già visto ecco, qualcosa. Era un pezzo per cambiare un po', no? Qualcosa. Spero che non sia quello che penso io. Ma io, comunque a me, il pezzo, devo dirti la verità, è fatto bene. Poi il genere de gustibus, diciamo. Madonna. Io voglio sapere Santa. Cosa. Io voglio sapere cosa pensa Fabio. Di cosa? Visto che ha detto, no, spero che non sia quello che penso io, ma cos'è che pensi? Che sia il brano che penso io, che ho già ascoltato magari. Va bene, andiamo ad ascoltarlo e poi dopo ci Chiediamo. Dite i vostri commenti a margine. Dai. Facciamo così, va. Girl, no sé por qué, pero me hipnotizas. Podría hablar contigo una noche entera. Tú sabes que yo quiero estar contigo, pero me da miedo caer al vacío. La vida da vueltas con el torbellino y el cielo a veces se siente vacío por tus mentiras. Que todo va a estar muy bien, pero eso ya me lo dijiste ayer. Por tus mentiras sombrías, sombrías. Y dices que todo va a estar muy bien, pero eso ya me lo dijiste ayer. Y empezamos de nuevo, tratamos de arreglar esto, pero ambos sabemos que esto ya no va igual. Ya no va a jalar, ya no vamos igual. Ya no estamos en el mismo canal. Dime qué fue lo que sucedió. Tú te cansaste de dar amor. Según tú cambiaste y esto murió. Nos fuimos y nunca dijiste adiós. Por tus mentiras sombrías. Puras mentiras, solo dime cómo lo haces. questo com'è che l'abbiamo chiamato? Reggaetronic. Reggaetronic. Sì, sinceramente se non avesse avuto la base così No, vabbè, allora lui si vede che è messo, cioè si sente anche che è... Se avesse avuto una cassa più dritta, più dritta. No, ma non dispiace, non dispiaceva, no, dai, no, bene, bene, bene. Saranno contenti i nostri amici della Myrdal, dopo li taggeremo. Bravo. Però devo dirti la verità, è un'etichetta che mi piace molto perché produce un po' di tutto. Spazio. Infatti, adesso non mi ricordo il prossimo brano se è sempre loro, però ascolteremo altra musica che in realtà proprio non c'entra nulla con quello che abbiamo ascoltato adesso e con quello che abbiamo ascoltato prima, quindi è molto ampia, varia, sì, e... sì, 360 anche... gradi, diciamo. Sì, diciamo che magari in alcuni momenti sì. Anche avariata, però e anche col trenino, dai, musica a 360 gradi col trenino. vabbè io vedo facce tristi e sconsolate, no. Dall'altra parte cosa succede? No niente, la sono concentrate sulle con i social. No, io stavo guardando nulla veramente. Ok, bene, ancora meglio. Un momento di depression, no. Visto a va bene beh sì, un po' di stanchezza ci sta, dai, tutto sommato siamo arrivati a venerdì. Bisogna un po' ricaricare le pile. Meno male che c'ho qui Deborah, me la posso coccolare, eh? Che fortuna. Bene sono le mani del destino. Vabbè, qualche stupidata by Fabio ci vuole, ma ci stava, dai. Beh, l'hai chiamata apposta, cioè. Non dico nulla in merito. No, allora dimmi. Allora io volevo, visto che è appena iniziato l'anno, no? Sì. Volevo farvi ascoltare una cosa fantastica. Madonna mia. Oddio. Perché questo me l'ha mandato una mia amica. Sì. Su Facebook. E sentiamo. Occhio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di saleta mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Quindi... Vabbè, è un classico, dai. Quindi cos'è che era? Quindi un... è il nostro augurio per il nuovo anno. Siamo già arrivati a lunedì. Da domani. No, scherzo. Madonna. No. Era una battuta pessima. Pochi la capiranno, però vabbè. Bene, dai, continuiamo con sempre la Myrdal. Adesso mi sono un attimo. Intanto che sentivo le stupidate, mi sono un attimo. Diciamo che... riallineato. E il prossimo brano, come dicevo prima, è stato estratto sempre da una loro compilation che è The Winner's Journey. Sembra sì, la battaglia del. L'album di Coldplay, vagamente. È vero, viva la vita, è vero. Viva l'album sembra quello. E andiamo a ascoltare un brano. Boh, particolare, strano, già lo sentiamo in sottofondo. Loro sono Android A Maker, I Am The One. Ok. Yeah. I'm waiting for transmission. Thank you.

Ed eccoci tornati in diretta con il brano dei One It One, spero di averlo detto giusto. E al telefono dovremmo avere anche Michele, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Oh, perfetto, perfetto, ce l'abbiamo fatta alla fine. Abbiamo fatto un sacco di prove, mica prove, alla fine ci siamo riusciti. E anche bene, devo dire la verità, siete molto bene. Allora, intanto benvenuto, e, tu fai parte Grazie del progetto One It One. Volevamo, allora, devo dirti la verità. Allora, vi ha scoperto il mio socio Tony, che lo puoi vedere dalla webcam dall'altra parte. Ciao, ciao. Ciao, io, Tony. Ciao, io non ciao. Vi conoscevo, poi ho ascoltato qualcosa e mi siete piaciuti veramente molto. Cioè il progetto, un po' anche tutta la storia del progetto, ma devo dire la verità anche la qualità della musica, perché diciamo che di roba elettronica ne ascoltiamo davvero tanta, e come musica elettronica mi piace un po' tutti i brani che mi hai mandato, che ho ascoltato sui vari social, sono veramente belli. E niente, parlaci un po' molto, del molto piacere. Perfetto, perfetto. Presentati un po', presentateci un po' il vostro progetto, dici un po' di come siete composti. Allora, gli One It One sono un progetto che è nato nel 2012 e l'idea mi è venuta perché io faccio da quasi 15 anni l'educatore e coordinatore in varie azioni nella mia città, che è Livorno. E volevo trovare un progetto che unisse una mia passione, che è quella musicale sostanzialmente, che già prima suonavo delle band però di altro tipo di musica, con un progetto sociale, ok? Quindi l'idea della musica elettronica poi è stata per degli ausili, in quanto la musica elettronica, con tutta la strumentazione, tutti i software che sono sul mercato adesso, permettono di avere molto più gioco anche in fase produttiva, in fase esecutiva, da parte dei componenti della band, che attualmente siamo in quattro e è un po' la band fissa, anche se delle volte abbiamo sperimentato anche l'ingresso di nuovi ragazzi, anche facendo dei laboratori per la regione toscana tramite il progetto Giovani Sì. E all'interno c'è per esempio un ragazzo che si chiama Samuele Virgili, che è un DJ che mi dà una forte mano all'interno del progetto. Okay, okay. Said Guerrini, che è un ragazzo con sindrome di Down, che è un bravissimo cantante, utilizza vari strumenti all'interno del progetto. E Matteo Nati, che è un ragazzo cieco, che però veramente l'anima trascinante della band, per determinazione, usa le percussioni veramente molto molto bene. E niente, all'inizio è stato l'obiettivo nostro, ti ringrazio dell'osservazione sulla musica, perché è sempre stato quello, il nostro sogno era quello che uno ascoltasse i brani e sostanzialmente, a prescindere della disabilità o meno, che ovviamente ha occhi di vedere oltre la musica, ovviamente è un progetto sicuramente particolare, però che ci notassero per la qualità musicale. E quella c'è parecchio, c'è stato quello c'è un parecchio. Lavoro veramente immane su questo aspetto, quindi insomma ci fa molto piacere la tua osservazione. Allora ascoltiamoci il prossimo brano, che poi dopo magari ti chiedo qualche informazione in più sui vari brani. Il prossimo che volevo far ascoltare è Rolling Stone, poi dopo ci dirai magari qualche info aggiuntiva. Perfetto, grazie. questo era un altro brano dei One It One. Spero di averlo pronunciato giusto. Poi chiediamo lumi anche a Michele, giusto? Ci senti? Non ci sentirai mai perché ho tirato sul canale il canale sbagliato, scusate. Adesso ci dovresti sentire però. Vi sento ma benissimo. Toglieci una curiosità perché eravamo fuori onda. Sappiate che anche se eravate fuori onda io vi ho udito. E avevo ragione. E ho anche riso come un pazzo. Ok, abbiamo scoperto questa cosa. No perché è bello il dibattito è stato. No ma Fabio secondo me non sente se c'è il canale abbassato. Perché se ci ha attaccato le cuffie. Vabbè, invece alla fine basta. Michele, se volete un altro ve lo aggiungiamo nel gruppo. Parliamo dell'oggetto di quello che dicevate prima. Infatti. Ops. Cosa merda. No, parliamo della musica, sì, che è meglio, dai. Sì. Della musica che è meglio. Allora, il brano che mi ha ascoltato era Rolling Stone. Ti volevo chiedere, quindi anche tutta la parte, diciamo, dubbio da produttore, che anch'io faccio un po' di musica, qualcosa, tutto quello che avete fatto quindi è diciamo frutto del lavoro, compreso magari anche il testo, la parte... Allora, sostanzialmente, noi siamo partiti... Siamo partiti in maniera delirante, ovvero utilizzando sostanzialmente iPad e utilizzando varie strumentazioni, perché non avevamo appunto un budget elevato da investire poi sul progetto. Mano a mano che è cresciuto il tutto, noi abbiamo ovviamente utilizzato Ableton e da lì io sono partito in produzione, che sostanzialmente la totalità delle tracce le ho composte io. Abbiamo avuto una mano enorme da dei musicisti livornesi che noi spesso durante i nostri ci accompagnano durante i nostri live anche in jam session, diciamo, elettroniche, tra cui Roberto Luti, che è un famosissimo chitarrista che suona anche nel progetto Play for Change, e Nicola Venturini, che è un tastierista eccezionale, nonché un grande amico, e Fabio Marchioli, che suona anche con Bob Rondelli, e Massimiliano Gemini, che anche lui è un sassofonista che ha diciamo campionato, noi abbiamo campionato le loro idee e ci hanno permesso insomma di fare una selezione di suoni che adatti a quello che noi volevamo trasmettere, inserirli poi nel nostro CD d'esordio. Okay, quindi è stato un lavoro molto molto molto grande, molto interessante anche per variabilità. Cioè la diversità è stata proprio anche musicale, oltre nel nostro... Posso dire infatti che... Un bluesman che suona musica elettronica è una cosa da New Orleans a Livorno, da Livorno a Livornitone, è molto molto particolare. E infatti si notava anche la differenza, diciamo, dalla prima canzone che abbiamo sentito a questa, cioè, anche se sempre dance, sono due generi già un po' diversi. Sì, elettronica più sul dance. Ok. Beh, sì, ma penso che sia una discussione interna tra di noi, perché noi siamo voluti rimanere un po' al di fuori dell'etichetta, sì, anche a livello di un album, siccome un album che è stato costruito in 7 anni, sì, quindi 7 anni di percorso musicale ovviamente da parte nostra, e anche all'interno dell'album stesso c'è tante anime dalla musica prettamente lounge, da una tipologia un pochino più techno, molte anime che si raccogliono, cioè trovi il funk, c'è un po' di tutto all'interno di quest'album. Ok, allora ascolta, anticipaci un po', anzi vabbè, ok, sì, hai capito, Dreamland volevamo ascoltare adesso come okay, pezzo. Questo su che cosa, su che genere siete, su che stile, ecco, più che altro siete andati? Dreamland ha la presenza di una voce femminile, che tra le altre cose è la mia compagna, e quindi è stato molto difficile lavorare con le compagne, tra le altre cose. Ma qui in studio siamo due coppie, dunque... È uno latitante. Va bene. È una canzone comunque abbastanza... intima. Dreamland è una canzone che è un po' anche nostalgica a suo modo, perché poi parla anche della volontà di evadere dalla normalità della vita quotidiana, di vivere un po' allo stato brado, quindi è una canzone che magari ognuno di noi ha una volontà di libertà, e in questa canzone abbiamo provato un attimino a racchiudere il nostro sentimento a tal proposito. Perfetto, perfetto, dai, andiamo a ascoltarla. Direi che non ne sbagliano una, anche sì, questa mi sì. piace molto. Molto bella, molto. Quest'anno cacciata. E tra l'altro è arrivato anche il buon Fabio. Il Fabio 2, la vendetta. La vendemmia, sì. E quindi, Michele, hai un'altra persona che ti farà domande tecniche, sicuramente. Ciao Fabio, benvenuto. ciao. Lui è un po' il chitarrista un po' strano. Mancato, bravo. Quindi nel programma dà sempre un po' il suo contributo musicale. Ecco, diciamo solo così. Che sono arrivato adesso, voglio ascoltare ancora un bel po' di pezzi. Infatti. No, il pezzo è bello, effettivamente la voce femminile ci stava, quindi anche se ci hai detto che è stato un lavoro travagliato, però dai, no, il risultato no, è buono. Era una battuta, sì. La voce di Sara Carotti è una cantante tra altre cose molto brava, e comunque più che altro la difficoltà in maniera senza più scherzare è unire varie menti all'interno di un progetto così ampio, perché registrare un album in 10 persone e tra le altre cose fatto in studio da noi, quindi è stato totalmente autoprodotto, a parte il mastering che è stato fatto da Pobla Studio, che è una insomma, sono dei ragazzi di Valencia che sono stati veramente carinissimi, che abbiamo anche tra le altre cose conosciuto al Sonar, perché siamo andati da pazzi con i ragazzi al Sonar a ballare, si è fatto bello bello mattina. Quindi che è stata un'esperienza davvero. È stata un'esperienza incredibile e abbiamo avuto, insomma, il piacere di conoscerli e ci hanno dato una mano e sostenuto nel, insomma, in tutta la fase di mastering dell'album. Michele, comunque voi, Livorno è una scena elettronica molto famosa, soprattutto nella techno come DJ, cioè voi siete stati ispirati soprattutto anche da questo, oppure magari, cioè, siete in tanti, avete varie idee, però Livorno comunque è musicalmente, su quel punto di vista, è techno, con Alicante e vari DJ che girano un po' il mondo. Sì, noi, io insomma ogni tanto mi sono scritto anche con Ilario a proposito del progetto e ti dico la verità, no. Ok. No, perché, no, meglio così. Perché per esempio i miei gusti musicali, il mio gruppo preferito sono i Tool, quindi si parla proprio di una dimensione totalmente differente di gusti. Però probabilmente la nostra forza è stata proprio quella che all'interno di una così variabilità di influenze musicali siamo riusciti a fare un prodotto che per noi è particolare. Io guarda, ogni tanto mi disintossico, non l'ascolto per un po' di tempo perché ho bisogno, poi quando li ascolto ci sento delle sfumature che per noi sono interessanti comunque sia e non annoiano sostanzialmente. È vero, questa è una cosa. La tecno sostanzialmente gusto personale, laddove non c'è melodia, dove non c'è una musicalità, io mi. Ti addormenti? Insomma, dopo un po'. Sì, ma anch'io, non è. Cioè, non è che amo la tecno, però soprattutto perché la zona di Livorno toscana, ecco. Sì, ma infatti abbiamo avuto possibilità anche di suonare in varie parti in Toscana perché c'è un movimento abbastanza importante e soprattutto c'è vari festival, vari progetti che sono attivi nella nostra regione, che per questo è molto molto attenta. E, no, effettivamente hai detto una cosa che faccio spesso anch'io, cioè di cambiare un po' quello che si ascolta, perché dopo un po' l'orecchio effettivamente si abitua. Ma anche tipo, metti che ascolti un genere, continui ad ascoltare quel genere lì, ti sembra tutto uguale dopo un po', no? Quindi è giusto effettivamente cambiare genere, sentire altre sfumature, altre cose. Poi magari quando ritorni al genere precedente lo capisci meglio. Ecco, era una mia elucubrazione. Lo vedi con un'altra visuale. Anche. Il prossimo brano, siamo al penultimo, che andiamo ad ascoltare, ha un titolo un po' particolare, infatti quando l'ho visto ho detto, boh, chissà perché. Il brano si chiama Ashish, giusto? Esatto. Non lo so, allora, nel senso, è scritto, non so se è scritto in modo, è un po' particolare, no? No, credo che vada bene perché sono andato su Google, cioè cercare per non sbagliare in credo anche no, ma sono io che sono negato queste cose, quindi sono stato una settimana a capire come si scriveva, perché dirlo si diceva praticamente tutti, però nella fattività è un pochino più complesso, però ho studiato, quindi sono andato su Google. Hai studiato anche come produrla? No, la musica. Va bene, dai, andiamo ad ascoltarlo e poi dopo ci sentiamo per ultime battute. We'll be right back. Torniamo in diretta con Wolf Trips. Questo era un altro brano dei One Hit One che abbiamo al telefono, e il brano era Ashish. Il pezzo è anche questo bello, ma anche soprattutto i suoni mi piacciono molto. Molto elettronici, ho notato. Molto elettronici, c'è anche forse una chitarrina, giusto sì. Michele? C'è qualcosa sì, di qui chitarra? A, diciamo, ritornando a discorsi prima, è un brano un pochino più acido rispetto agli altri, un pochino più techno, sì, ecco, sì, rispetto sì, agli sì. altri che magari hanno diciamo, più influence, magari funky. E il significato sostanzialmente poi è sempre un misto di esperienze, magari di vita. Qui parla sostanzialmente della dipendenza in generale, che sia anche dall'aspetto affettivo e soprattutto magari nelle relazioni fra uomo e donna. Quindi è un brano un pochino che parla non tanto della droga in sé, ma delle dipendenze che quotidianamente tutti noi abbiamo. È profonda come canzone. Eh sì, eh. Cioè, proprio... Mica come te che... Tu te li sei persi, ti dovrai riascoltare il podcast. Ma no, poi me li ascolterò. Beh, ma poi c'è anche l'album, te lo puoi anche comprare, eh? Ti puoi comprare, infatti volevo farti lasciare tutti i vari contatti dove vi possiamo ascoltare o acquistare anche l'album. Sì, allora noi sostanzialmente siamo su tutti diciamo i portali di vendita per la musica, quindi ci trovate ovunque, su Amazon, su iTunes, Google Play, tutti praticamente. CD Baby, insomma tutti quelli che ci sono. Baby. Cioè, CD Baby. Dopo ti faccio vedere, okay. Sì, è un sito particolare di vendita musicale. Inoltre siamo su Spotify, quindi cercate One Hit One e troverete il nostro link con tutto l'album caricato. E il canale di YouTube ad ora non è molto aggiornato perché non abbiamo caricato ancora molto, ma a breve lo faremo, perché insomma l'idea era quella di montare ora un mini documentario sulla nostra storia. Mi stavo un attimino cercando una persona che ci dà una mano in questo. Bene. E niente, poi chi fosse poi interessato poi al nostro percorso musicale o un eventuale live ci può pure scrivere su Facebook oppure anche sulla nostra mail, che è onehitoneofficial@gmail.com. Quindi perfetto. Per i live questi. C'è qualcosa in progetto? Allora sì, probabilmente andremo a Bologna. Sì. Questa Bologna due... No, perché è una città che si sta legando molto tra di noi. Incrociamo spesso sul nostro discorso della musica, però. Sì, più che altro hanno numerosi spazi nel quale opportunità poi di esibirsi. Poi il nostro live set, essendo un po' particolare, che spesso suoniamo diciamo per gli aperitivi, ma anche per il doposera, quindi partiamo sostanzialmente con 2-3 ore di live set, nel quale ovviamente ogni ragazzo poi ha la sua strumentazione. Abbiamo comprato anche strumenti un po' particolari, ora dei cubi dal nord Europa che funzionano via MIDI. Abbiamo preso anche ora una cosa su internet che possiamo suonare addirittura le banane, l'acqua. Stiamo facendo ricerche. Sì, ho visto. Sì, sì, c'era interessante. Un DJ, top DJ, c'era un ragazzo, forse di Galarate, proprio dal nostro. Dalle nostre parti, che suonava qui con la frutta attaccata. C'è un mondo di studio dietro, perché poi sostanzialmente quello che noi cerchiamo sempre è uno strumento anche facilitante, espressivo per tutti noi. Quindi le facilitazioni laddove noi l'abbiamo nel software, il ragazzo magari le ha a livello di movimento fisico. Quindi c'è proprio uno studio dietro che noi portiamo avanti da appunto 7 anni per ottimizzare al massimo l'espressione e la creatività musicale. Ok. Io volevo scusa, prima stavamo parlando, ci siamo sovrapposti la data del prossimo live. Allora, non è ancora al 100%, vi consiglio di seguirci poi su ovviamente i vari social. Dovrebbe essere il 2 di febbraio. Ok. Però non voglio magari dire una cosa che poi non è bene, quindi aspettiamo la conferma. Va bene, sicuramente a Livorno il 15 marzo suoneremo per il nostro compleanno, perché tutti gli anni festeggiamo con una mega festa il nostro compleanno, e insomma chi vuole poi potrà a meno che poi non ci chiamate a Milano. Allora Michele, noi qua tra di noi, soprattutto io, la mia compagna è delle tue parti, che è di Cecina, e lei non voleva parlare. Prego, Debora. E che devo dire? Ciao Debora. Ciao ragazzi. Scusatelo, doveva dirlo per forza. Eh sì. Però, vabbè. Mannaggia voi, mannaggia. La carrambata di oggi. Sì, infatti. No, è per quello. Erano amici da piccolini e giocavano nel cortile da pallone. C'è un proverbio a Livorno che dice: meglio disoccupata a Livorno che ingegnere a Milano. Questo è un proverbio che... questo però, non lo sapevo. Vabbè, tanto ingegneri neanche qua sono, quindi... bene, ho fatto male. D'accordo. Va bene. Per questo è partito tutto il discorso che prima hai sentito fuori onda. L'ho sentito. Meno male che il fuori onda non si sente. Va bene. Ascolta, noi ti ringraziamo di essere stati qui a Wolf Trips. E anzi, quando magari avete qualcosa di nuovo, qualche nuovo brano, qualcosa, ci possiamo anche benissimo risentire. Sì, e... c'è un ballo, un po' di cose nuove. Perfetto. Tanto se vengono anche in Lombardia. Se vieni in Lombardia, noi possiamo magari facciamo un'intervista qua dal vivo. Noi, guarda, per interviste dal vivo siamo sempre. Però, ovviamente, se siete qua da queste parti, vi ospitiamo tranquillamente. Possiamo anche fare, quando fanno una serata qua, andiamo con il nostro programma. Quello sicuramente. O la Diabla ci paga per Livorno. Appena troveremo qualcuno che ci sostiene per il booking, sicuramente verremo dalle vostre parti. Okay. Quindi ci sarà occasione. Vi aspettiamo allora. Allora, noi ti salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao Michele. Ciao. A tutti. Music.com. Wolf Trips, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. We'll be right back. Bene, bene, bene. Sono qua da solo insieme a voi. No, due. No, ci sono anch'io. Che caspita. Sono qui quattro cupi e non so quali sono le mie. Prima vabbè, vai a braccio, vai a braccio. Sì, vado a braccio. Ormai sono... gli ospiti questa sera sì. Li abbiamo salutati. È stata salutiamo anche una bella ancora. Intervista. Ciao, poi dopo Michele. Le riascolteremo nel podcast che metteremo nei prossimi giorni. E, abbiamo un cambio alla regia. Sì, una prova, in prova, in prova, in prova. Buonasera, eccomi qua. Adesso concentrati su di lì. Si salta qualcosa, ecco, sapete ecco. Diciamo perché che tiriamo via la telecamera dalla regia momentaneamente. No, ma in realtà guarda, se sei bravo, hai un futuro qua in questa radio, te lo posso assicurare. Yeah. Anche a dormire qua. Puoi anche dormire qua, guarda. Sì, ho visto che c'è anche il divano lì già pronto per visto, me, quindi. Visto, ci abbiamo tutto, non ci facciamo pauroso. Mancare nulla. Poi vedi, se lui fa la regia io sono più tranquillo per dire le mie stupidate, tipo aia. No, stupidate. Tipo questo brano qua che effettivamente mi ha fatto ricordare che sembra un po' i boy e girl dei giorni un po' più un po' anche scarno, ecco. Cioè non è molto e allora succoso. questo forse nella playlist di oggi è il brano un po' più ripetitivo, che più sulla meno. Techno, che suona, che suona meno. Però tutto sommato se schiacci next, ok. La prossima canzone. No, è la base. Veramente volevo tenerla come base. Base, così poi mettiamo una. Vabbè. Però devo dirti la verità: è un brano che io metto spesso in Wolf Trips. Non so, a me piace. Magari lo posso trasformare in base. Lo trasformerò come base per la Ma prossima come volta. Base ci stava, eh? Infatti. Va bene. Lui è un DJ portoghese e produce musica. Antonio Bizarro. Antonio Bizarro. E produce musica elettronica industriale. Sì, che però. Il senso dell'industrial. Sì, c'ha un po' il senso dell'industrial. Però okay. Vabbè, dai. Non credo che sia associato a nessuna etichetta. Infatti. Ah no, è della Enaug Records. È di un'etica. No, pensavo fosse un sì, tiratore libero. Abbiamo sempre che non è telefono. Tiratore scelto. Un tiratore libero, un franco libero. No, in realtà no. E quindi niente, io direi che questa l'abbiamo ascoltata e andiamo a ascoltare invece il prossimo brano, che è di un'etichetta che mi piace tantissimo ma non mi calcola per niente. Davvero? Che si chiama Edison Box Rec. Mi aveva mandato dei demo ma poi non siamo riusciti a incrociarci. Arrivano da? Italia. Italiani. Italia. E guarda te, mi rispondono quelli del Texas e non mi rispondono quelli dell'Italia. Però il brano ne vale tanto. Loro sono i Super Invaders. L'avevamo già passato sì, tempo fa. Sì, tutta una roba molto retro game, no? No, loro Super Invaders. Sì, cioè, no, titolo, Bravo. Ma anche la copertina. Però il brano secondo me ti stupirà. Il brano si chiama Interstellar Drug Dealing Problem. Spero di averlo detto giusto. Sì. Che è incredibile. E vedi perché non sono alla regia, sono più tranquillo, mi invento tutto. E niente, andiamo ad ascoltarcelo. Va bene. Vai. We'll be right back. niente, rientriamo dal pezzo che... Questo pezzo è molto pulp. Eh sì, è vero, sembrava un po' Pulp Fiction, un po' misto, Pulp Fiction misto a qualche synth, mettiamola bravo, così. Bravo, anch'io penso. Sintetico. Voi dovevate dire qualcosa, vi vedo lì che state, no. Vi state sempre più avvicinando al microfono, sembrava no, che... No, qualcuno mi ha spostato il seggiolino qua. Faremo una puntata dei soliti ignoti su Rai 1. Chi ha spostato il seggiolino? Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Tony, sei tu che hai spostato il seggiolino? Ton, ton, ton, ton. No. Dobbiamo andare a riguardare le ecco, telecamere, ecco. Vedere anzi, chi potevamo è potevamo mettere stato. Il giro di basso di questa canzone. Vabbè. Fabio, com'è andata la settimana lavorativa? Beh, brutta. Chi vede il video dal mio volto ormai stremato si può capire che sono contento che sia venerdì sera, che non ce la faccio più. Sì, dai. Sei andato in palestra, che noi abbiamo raccontato le tue gesta, nel senso sì. Che abbiamo detto che sei andato sul tapiro a correre. Ma proprio sul tapiro, quello di Striscia. Infatti ha vinto il tapiro d'oro. Qualcuno ha detto che arrivavi rotolando. Ha detto no, rotolando no, è vero che però massimo no, arriva a correre. Perché è rulando il tapiro. Sì, quindi... no, per quello, non per altro. È rimasto attapirato. Ok. Ma eri da solo o eri in compagnia? No, vabbè, in palestra vado sempre con i soliti bischeri, cioè ormai c'è il gruppetto. Ok. Cioè, non è che io vado in palestra per fare esercizi, io vado in palestra per fare public relation. Giusto, no? E parlare anche del nostro programma, così almeno magari cosa ascolta anche qualcun altro. Secondo me... per guardare le ragazze. Ma no. Ma che ti cresce il naso? Ma solo il naso, no. Ragazzi, va che siamo in fascia protetta, eh. Infatti. La proteggo la fascia io. Ero un buon terzino quando ero piccolo. Ok. Continuiamo con un po' di musica e poi ci facciamo... Dobbiamo fare poi la pausa pubblicità, mi spiace. Voi no, state fermi lì però, per piacere. Perché dovete sapere, quando c'è la pausa pubblicità, loro vanno fuori... Poi stanno 20 minuti e finito il programma. Poi dopo 20 minuti i pollici e un pollino che facevano sulla mondo. No. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è Ghost Notes con Before Sunrise. Non so assolutamente di che etichetta sia, colpa mia, però vabbè, iniziamo ad ascoltarla, dai, andiamo. I don't know you. music.com. Wolf Trips. I viaggi del lupo. Stavamo parlando prima con Fabio, no? E volevo capire, ma scusa, ma noi da dov'è che trasmettiamo? Ma noi a Gallarate! In provincia di Gallarate! No, che provincia di Gallarate? Nazione Gallarate! Sul pianeta di Gallarate! No, ma come lo diceva la pubblicità prima, a Gallarate! Vabbè, comunque io ti dico che a breve conoscerai la persona che ha fatto quello spot, quindi se ci sta ascoltando, sono cacchi tuo, io te lo dico. Ciao Miki. Vabbè, Gallarate con l'H? Sì, è Gallarate. Gallarate. Anche ti prego, lascia il microfono. Povero microfono. Comunque, posso dire una cosa? Questa canzone sembrava molto stile Garbage. Sì, abbiamo già ascoltato questo brano. Anche questa viene dalla Russia. È un pezzo che mi piace. Si chiama A Bit Advanced Music, che l'abbiamo ascoltata anche settimana scorsa. Ma sicuro che viene dalla Russia? Viene dalla Russia, perché? Io pensavo che venisse da Gallarate. Pensa che ho trovato il loro profilo su VK, che è il Facebook della Russia. Di Gallarate, sì. Gallarate, ragazzi, okay. Cioè la G è potente, cioè non è... Ma secondo voi Gallarate è una sola o ce ne sono... No, è due galli, quindi è Gallarate. Vabbè. Sono tante rate a galla. Ecco, vabbè. Il programma è finito, arrivederci, grazie. Ciao. Faccio come farebbe qualcuno in televisione. Ok. Io faccio maglio. No, in realtà volevo introdurre un attimo di serietà, no? Perché già settimana scorsa abbiamo ascoltato un brano estratto dalla... si può dire gira la ruota, yeah. Vai, prova. Ma se continuate a dirmi non riesco a dir niente. Aspetta, comincia con la prima lettera e poi viene da sola. Rubrica di Tony, Sunset Light. Ok, quindi adesso ascoltiamo un altro brano. Dove l'hai trovato questo brano qua? Poi di chi è? Che cos'è? Allora, un'etichetta tedesca, si chiama Zimmer Record. Che fanno musica elettronica, via dicendo. Mica che accento che hai, eh? Che accento? Questo è di Amburgo proprio. Senti, questo è Amburgo al ketchup. Il nome del gruppo è strano perché si chiama Babylon Laboratory. Ok, abbiamo fatto un mini EP e ho estratto una canzone che si chiama Wet Floor. Perfetto. Andiamo a ascoltarla con anche la sigla annessa. Attenzione, lanciamo anche che se non piace siete autorizzati a venire qua a lanciare i pomodori. Dove? A Gallarate! Sì, ma non a noi, eh. Infatti. Oscura, è un po' oscuro il brano, eh. Questo è più che da Sunset Light, è proprio da notte. Notte profonda. Notte profonda. Ogni tanto mi vivo anch'io, dai. Sì, no? Sì, wet floor, quindi è pavimento bagnato. Giusto. Umido, dai. Umido, sì, basta non scivolarci. Sì, infatti. Va bene, che ore si sono fatte? Che ora abbiamo fatto? Ma cioè, vai, presto, presto, le 10 meno 20. Io, devo dirti la verità, inizio ad avere una certa fame. Tanto di là abbiamo dei, diciamo, dei suicidi di massa. No, omicidi. Omicidi. Io stasera ho mangiato. Cosa hai mangiato? Mi sono fatto due uova sode e una scatoletta di tonno. Ah, proprio il classico, diciamo, classico. Non c'ho voglia di cucinare, bravo, non c'ho voglia di cucinare, trovo su qualcosa. Va bene. E, niente, se di là si sono ripresi e non hanno nessuna osservazione in merito, o no? No. Di cosa stiamo parlando? Io ero un attimo fuori. Ma no, stiamo parlando del nulla misto. Ormai siamo nella fascia, okay. Nella fascia delirio. Sì. Possiamo andare un po' a ruota libera. E quindi... Siamo nella demenza pura. Un po' a braccio. A mangiare. Comunque, sì, devo dire la verità. Dopo andremo a mangiare, però non a Gallarate. A Busto Arsizio. No, volendo, attenzione, noi siamo a Samarate. È vero. Ma è non vero. Lo dici con quella potenza. A Samarate. No, è vero, è smorzato. Dai, Samarate c'è quasi una mezza Z quando lo dici, è già, A Samarate. Già subito taglio. Ragazzi, mi raccomando, non sforzatevi troppo, perché a furia di sforzare troppo potrebbero partire delle sorprese. Vabbè, vabbè, abbiamo capito. Ma che non siamo noi quelli che dobbiamo stare attenti. Ah, perché mi sono messo un dato sbagliato? No, ragazzi. Occhio, La doccia facile lì. Va bene, va bene. Torniamo alla musica che è meglio, direi. E il prossimo brano io non so assolutamente come si pronunci. Mi lancio, o vi lanciate voi, non Dove? Lo so. Ti lanci? Allora, l'autore è Bodacious. No, ci sta. È facile. E Sweet 1684. Ok, l'etichetta è sempre la famosa Myrdal che abbiamo ascoltato prima. È che hanno messo un bel commento, cioè. Ah, hanno davvero? Messo il cuoricino. Davvero. Sì, sì. Li salumiamo tanto anche noi. Il titolo è come una canzone di un gruppo americano, Bullying for a Soap, 1984. Ah, è vero, sì, hai ragione. Un gran bel pezzo. Vabbè, ascoltiamo il brano. We'll be right back. mi sta puntando il dito. Ai ai ai ai. E ti va bene che è il dito. Sì. Basta che non mi giro, va bene tutto. Vabbè, vabbè, qui abbiamo ritornato il capitano Uncino alla regia. Ah, quindi non è un dito? Ha portato avanti in alto la mano, quindi. No, no, sto scherzando, gli ho detto io di farlo, quindi. Va bene, questo era anche un altro bel pezzo, anche se però stavamo discutendo. Allora, se tu venissi dall'inizio della puntata, sapessi. No, scherzo. Sapessi. No, l'ho detto apposta. Sapresti che dobbiamo scegliere un brano della serata, no? Ah. Questo non era malissimo, però io ne abbiamo ascoltato. Preferivo sempre. Bravo, bravo, bravo. E ricordiamo per chi lo dobbiamo. Sì, perché siamo in collaborazione con tanti, diciamo, magazine online, come li vuoi chiamare. Allora, abbiamo la collaborazione con Viva Mag di Gallarate. Di Gallarate! Di Varese. Che tra l'altro salutiamo Vincenzo Monreale. Ciao Vincenzo. Poi abbiamo la collaborazione con Stay Music, che sono loro, sono italiani ma vivono in Spagna. Sì. Quindi addirittura una collaborazione per caso oltre... a Barcellona sì. Ragazzi, allora io dal 12 al 17 sono lì per un addio al celibato, ci vediamo. Quando mi troverete in mezzo a una strada che non capisco chi sono io. Sai, sì. Devi fare la notte da leoni. Se per caso doveste vederlo, lasciatelo lì. Ma addio al celibato o addio alla normalità? Ragazzi, spiegate voi cos'è un addio al celibato. È un addio alla normalità, dipende, certo. Dai. E poi dopo, per ultimare, diciamo, la nostra collaborazione. Abbiamo una collaborazione anche con Indie for Bunnies, che è un altro bel portale che propone sempre musica nuova, rock, indie, elettronica. Molto indie. Più sull'indie. E con loro abbiamo questa collaborazione di, diciamo, sponsorizzare un brano che nella nostra puntata ci è piaciuto parecchio. Loro lo sponsorizzeranno all'interno del loro sito. Quindi adesso siamo qui che stiamo facendo tipo gli exit poll per capire, diciamo, quale joint venture. Come genere si avvicinava più quello stile surf, ecco, per quello. No, che... ma loro non, sì, hanno. Loro sono molto carta bianca libera. Sì, sì, sì, sì. Ma tu scegli solo cose inedite o anche cose già fuori da un po'? Beh, il disco abbastanza inedite, dai. O comunque che provengono sempre da questo fantastico mondo delle net label, che guarda, è tutto a gratis, ti ricordo. Il pezzo che ho scelto io prima è del 2015. Sì, può essere anche un pezzo vecchio, però diciamo, no, se non l'ho mai sentito, potrebbe è nuovo alla fine. Cioè... certo, fin quando non lo ascolti non lo conosci, come dico io. Se qualcuno guarda la webcam, vede Tony che parla e la noia mortale della Deborah e della Cri. Era lì così. Se io parto come sono veramente, poi allora, se fossi un manga c'era tutti, se fossi un manga c'era la bollicina dal naso della Cri. invece noi siamo più occidentali, c'è la Z, no? Sì, scarma, dai. Allora, amici di Gallarate! Ecco, io devo stare attenta a te stasera, perché sennò non esci vivo dalla radio. Va bene, va bene. E continuiamo con... siamo quasi agli sgoccioli. No, Ma dai. Mi sa che gli ascoltatori da casa si stanno chiedendo che droga stiamo usando stasera. Il Rufil. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è Stark Pond con Morning Comes. Thank you. entra sempre tu. Anche perché io sto ballando. È vero. Infatti, se avete visto la diretta su Facebook, vedevate due persone che ballavano e ballavano. E, la cula laica. E stavano facendo squat, giusto? Certo. Siccome questa settimana ho fatto gli squat, li ho allenati. Sì, perché devi sapere, no, al mattino, Tony, io vedo Fabio, mi dice: minchia, ieri ho fatto squat e mi ballava il nervo. Non so che ha detto, stamattina. Cioè, sei già pornografico al mattino, io, sì, io penso 25 ore su 24. Anche mentre dormo solo sogni erotici. Recuperi anche un'ora. Si addormenta guardando film porno. Eh sì, perché faccio tutto con velocità. Ma, visto che è passato un po' di tempo, ma cosa hai fatto l'ultimo dell'anno? L'ultimo dell'anno sono andato in un bel posto a Como. Non mi chiede come si chiama perché non mi ricordo bene. Però, sì, con amici. È un pub dove suonano dal vivo. C'era questo gruppo che ha fatto un bel po' di cover. Anche perché, scusami, suonare dal morto è difficile. Beh, in trans. Gruppo trans. Como città, provincia. Scusami, ho detto una cavolata. È Cerminate il paese. Ah, sì, sì, beh. Non è Gallarate. No. È Cerminate. No, ma il locale è famoso. Si può dire, no? Non lo so. A parte che tranquillo, tanto non mi ricordo il nome. Ha detto che non se lo ricordo. Non c'è problema. È un famoso locale. Comunque c'è una buona birra e si mangia anche bene. Anche se è un... La pizza è stupenda. La pizza è una roba... Ma io ho mangiato alla carta. Io non gli davo due. Ho detto, ma sì, è un pub. Ci darà una bistecca. Il cavolo, si mangia veramente bene. Che aspetta, hai mangiato la carta? Lo stavo per fare io sta battuta, ma era buona. I piatti erano di carta. No, quindi. Io faccio sì, 5 3, lui ha. Vabbè. Poi, ragazzi, c'era l'open bar, cioè io da astemio ho dovuto... Astemio quando? Scusa, fammi capire, me la son persa questa cosa. Sono stato astemio fino alle 23.59 alle 00.01, poi dopo ho dovuto riprendere, cioè. Poi dopo delirio e... No, sono anche tornato abbastanza presto, dai, per essere Capodanno. Va bene, dai. Quindi hai fatto un Capodanno serio, dai. Sì, da bravo ragazzo, come dico io. Va bene, va bene. Un Capodanno lounge, tranquillo. Sì. Come al solito, niente sesso, come tutti gli anni. Aia, quindi quest'anno... Quest'anno... Vabbè, si può sempre, diciamo, invertire la tendenza. Hai recuperato dopo. Vabbè, adesso questo non si dice. No, perché la zona è frequentata dalle rotonde. No, siamo in fascia protetta, tappativi le orecchie. Va bene, dai. Ah, mettiamo l'ultimo brano di questa sera. Sì, siamo già quasi in ritardo. Cosa c'è? Cosa è successo? No, niente, scusate. Il prossimo brano è di Pastel Ghost, Shadows. Loro sono un gruppo, pensa, giapponese. E sono stati anche remixati, non so se in modo ufficiale o meno, da Miss Kitty. Quindi è anche un... Miss Kitty. Miss Kitty. Ma quella di Ello? No. Miss Kitty, che tra l'altro è anche... Va bene, basta, mettiamo il brano, no, che forse però, è meglio. Mettiamo il brano, inizia a mettere il brano. Però Miss Kitty praticamente è una DJ... Tecno. Penso tecno super famosa, sì, in tutto il mondo. E non è Hello Kitty. We'll be right back. I viaggi del lupo. Vabbè, niente, siamo arrivati proprio agli sgoccioli. Cioè, alla fine, detto cioè, così. L'ha detto così, c'ho una tristezza nel corpo, ragazzi. Eh beh, amen. Mi dispiace, perché poi tra una settimana ci rivediamo, ci ascoltiamo, quindi. Cioè, questo è il dispiacere. Se vuoi io non vengo, tranquilla. Se sei così triste, ti mando un messaggio, dico, sono vivo, tranquilla. No, non era in quel senso. Non era in quel senso, che stupidi che siete. Era nel senso contrario. Era nel senso buono delle cose. Che stupidotti che siamo! Noi di Gallarate! Quindi praticamente tu... Che c'è? No, niente, stavo dicendo una cosa tecnica, ma non... No, siamo tutto sotto le mani qua sapienti di Fabio. Beh, questa volta mi sa che è un po' accanato, però vabbè. Va bene. Quindi diciamo che la puntata ce la siamo portata a casa. Sì, salutiamo dai. Tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutti quelli che ci conoscono. No, scherzo. Quelli che ci conosceranno. Io saluterei anche quelli che non ci hanno ascoltato. Sì, dai, per una volta dai, li salutiamo. Sì, gli vogliamo bene anche noi. Sì. No, certo. Noi li salutiamo sempre quelli che non ci hanno ascoltato. Tanto non ci hanno ascoltato, quindi. Dunque, non lo sapranno. Non lo sapranno mai. Volevo salutare anche Daniele. Sì. E Davide. Ah, ci hanno seguito? Che ci hanno seguito stasera e ci hanno commentato la nostra diretta Facebook. Ma quanti va a cagare mi ha mandato? Tanti. Grande ragazzi, io vi stimo. Infatti, volevo ringraziare la persona che ha scritto il messaggio al cellulare, che ha detto che Fabio sì. È una testa di bip. Ma quali dei due Fabi? Tu. Ah, ecco. Lui stasera è stato impegnato, era qua che l'audio che trasudava sudore. Salutiamo Michele. Salutiamo Michele di One. Dopo metteremo su sì. Podcast e robe varie. E la canzone invece della settimana ve lo andate a scoprire nei prossimi giorni sui social o anche in For Bunnies. Ok, Bunnies, scusate. Io direi che ci sentiamo settimana prossima sì. E vi salutiamo. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Questo programma è in collaborazione con stymusic.com.